Con un guayabito, con un guayabito, con un guayabito, con un guayabito. Guayabito, te vi bien gallinaceando, yo paso tomando con mi guayabito.